Gatsby e gli chiese se avesse... Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Più o meno in quello stesso periodo, un giovane e ambizioso giornalista di New York si presentò un mattino alla porta di Gatsby e gli chiese se avesse nulla da dire. «Nulla da dire a che riguardo?» domandò Gatsby con garbo. «Beh, una dichiarazione qualsiasi da rilasciare». Dopo 5 minuti di imbarazzo saltò fuori che il giovane aveva udito fare il nome di Gatsby nel suo ufficio in relazione a qualcosa che o preferiva non rivelare o non aveva ben compreso. Quello era il suo giorno libero e di sua lodevole iniziativa si era affrettato a fargli visita per capire. Si trattava di un tentativo fortuito e tuttavia l'istinto del giornalista aveva colto nel segno. La fama di Gatsby, alimentata dalle centinaia di persone che erano state sue ospiti e pertanto si consideravano delle autorità circa il suo passato, era cresciuta per tutta l'estate al punto che per poco non finì sui giornali. Il suo nome era stato legato a varie leggende, quali il condotto canadese, e stando a una storia che circolava con insistenza, non viveva affatto in una casa, bensì su una barca che della casa aveva l'aspetto e si spostava in gran segreto su e giù per la costa di Long Island. Perché mai simili fantasie costituissero fonte di soddisfazione per James Getz del North Dakota, non è facile dire. James Getz, questo era il suo vero nome, o quantomeno quello legale. Lo aveva cambiato all'età di 17 anni, nel preciso istante che testimoniò l'inizio della sua carriera. Quando vide lo yacht di Dan Cody gettare l'ancora nel basso fondo più insidioso del lago superiore. Era James Getz che poltriva sulla spiaggia quel pomeriggio, con indosso uno sdrucito pullover verde e un paio di pantaloni di tela. Ma era già diventato Jay Gatsby, quando prese in prestito una barca a remi, affiancò la Tuolomi e informò Cody che correva il rischio d'essere colto dal vento e affondare in mezz'ora. Suppongo avesse quel nome pronto da tempo, perfino allora. I suoi genitori erano contadini inetti e mezzo falliti. Nella sua immaginazione non li aveva mai davvero accettati come genitori. La verità è che Jay Gatsby di West Egg, Long Island, scaturì dalla platonica concezione che lui stesso aveva di sé. Era un figlio di Dio. Una frase che, ammesso significhi qualcosa, significa proprio questo. E doveva occuparsi delle cose del padre suo, mettersi al servizio di una bellezza sconfinata, volgare e meretrice. Così si inventò quel tipo di Jay Gatsby che potrebbe inventare un ragazzo diciassettenne, e a questa ideazione rimase fedele sino alla fine. Per oltre un anno aveva battuto la costa meridionale del lago superiore pescando molluschi e salmoni, o adattandosi a fare qualunque altra cosa gli procurasse del cibo e un letto. Il suo corpo abbronzato e temprato sopravvisse con naturalezza al lavoro per metà spietato per l'altra fiacco di quei giorni corroboranti. Conobbe le donne molto presto, e poiché veniva da queste viziato, divenne sprezzante nei loro confronti, sdegnando le verginelle per l'inesperienza e le altre per l'isterismo che mostravano in faccende che lui, nel suo travolgente egocentrismo, dava per scontate. Ma il suo cuore era in costante e turbolenta agitazione. Di notte, a letto, veniva perseguitato dai pensieri più grotteschi e immaginari. Un universo di ineffabile sfarzo gli vorticava nella testa mentre l'orologio ticchettava sul lavabo e la luna gli imbeveva di una luce umida i vestiti buttati sul pavimento. Ogni notte aggiungeva un tassello al disegno delle sue fantasie, finché il sonno cingeva nel suo abbraccio oblioso una scena di vivida intensità. Per un po' questi sogni a occhi aperti fecero da sfogo alla sua immaginazione, costituivano un indizio appagante dell'irrealtà del reale, la promessa che la roccaforte del mondo poggiava con saldezza sull'ala di una fata. Un istinto verso la sua futura gloria lo aveva condotto qualche mese addietro al piccolo college luterano di St. Olaf, nel Minnesota meridionale. Vi rimase per 2 settimane, sgomento per la crudele indifferenza mostrata dall'istituto verso i tamburi del suo destino, verso il destino in sé e colmo di disprezzo per il lavoro di custode col quale era costretto a pagare la retta. Quindi lasciò che il corso delle cose lo riportasse al lago superiore, ed era ancora in cerca di qualcosa da fare il giorno in cui lo yacht di Dan Cody gettò l'ancora nei bassi fondali lungo costa. Cody era un uomo di 50 anni all'epoca, un prodotto delle miniere d'argento del Nevada, dello Yukon, della febbre per qualunque metallo, a partire dal 75. Il commercio del rame del Montana, che lo aveva reso multimilionario, ne aveva esaltato la robustezza fisica, ma anche il cuore tenero, e un numero infinito di donne, intuendo tutto questo, cercò di separarlo dal suo denaro. Le implicazioni niente affatto immacolate, per cui Ella Kay, la reporter, sfruttò la sua debolezza recitando la parte di Madame de Maintenon e gli fece prendere il mare a bordo di uno yacht, erano cosa più che nota al giornalismo sensazionalistico del 1902. Cody costeggiava rive fin troppo ospitali da 5 anni quando indossò i panni del destino per James Getz a Little Girl Point. Per il giovane Getz, le braccia appoggiate sui remi e lo sguardo alzato alla ringhiera del ponte, lo yacht rappresentava tutta la bellezza del mondo. Immagino abbia sorriso a Cody. È probabile avesse scoperto di piacere alle persone quando sorrideva. Ad ogni modo, Cody gli fece qualche domanda, fu una di queste a suggerire il nuovo nome, e constatò che il giovane era sveglio e smodatamente ambizioso. Qualche giorno dopo lo portò a Duluth e gli comprò una giacca blu, 6 paia di pantaloni di olonetta bianchi e un berretto da yacht. E quando la Tuolomi salpò per le Indie occidentali e la costa del Maghreb, anche Gatsby salpò. Fu assunto con mansioni vaghe. Per tutto il tempo che rimase con Cody fu di volta in volta assistente di bordo, amico, skipper, segretario, fin anche carceriere, poiché il Den Cody sobrio sapeva in quali eccessi potesse indulgere il Den Cody ubriaco e si cautelava da simili contingenze, riponendo una fiducia sempre maggiore in Gatsby. L'accordo durò 5 anni, nel corso dei quali la barca fece 3 volte il giro del continente. Avrebbe potuto durare un tempo indefinito, se non che una sera a Boston, Ella Kay salì a bordo e una settimana più tardi, Den Cody si rivelò così poco ospitale da morire. Ricordo il suo ritratto in camera di Gatsby, un uomo brizzolato e rubizzo con un viso duro e vuoto. Il dissoluto pioniere che durante una fase della storia americana riportò sulla costa atlantica la violenza primitiva dei bordelli di frontiera e dei saloon. Si doveva indirettamente a Cody se Gatsby beveva così poco. Talvolta, nel mezzo di ricevimenti allegri, le donne gli frizionavano i capelli con lo champagne, ciò nonostante prese l'abitudine di tenersi lontano dall'alcol. E fu da Cody che ereditò il denaro. Un lascito di $25,000, non ne entrò in possesso. Non capì mai lo stratagemma legale usato ai suoi danni, ma quel che restava dei milioni passò intatto nelle mani di Ella Kay. A lui rimase l'educazione, che gli si confaceva in maniera singolare. I vaghi contorni di Jay Gatsby avevano assunto la sostanzialità di un uomo. Gatsby mi raccontò tutto questo molto dopo, ma l'ho trascritto ora nell'intento di smontare quelle folli dicerie, nemmeno lontanamente veritiere, che circolarono nei primi tempi riguardo ai suoi precedenti. Per giunta me lo raccontò in un momento di confusione, quando ero arrivato al punto di credere tutto e il contrario di tutto sul suo conto. Ho quindi approfittato di questa breve pausa in cui Gatsby trattenne il respiro, diciamo così, per sgombrare il campo dagli equivoci. Ci fu una pausa anche nei miei rapporti con lui. Per diverse settimane non lo vidi né udì la sua voce al telefono. Ero per lo più a New York a trottare appresso a Jordan cercando di entrare nelle grazie della sua senile zia. Finché una domenica mattina gli feci visita. Non era trascorso nemmeno un paio di minuti quando qualcuno si presentò insieme a Tom Buchanan per un drink. Ne restai ovviamente stupefatto, ma la cosa davvero sorprendente era che non fosse mai accaduto prima. Erano un gruppo di 3 a cavallo. Tom, un tipo di nome Sloan, e una graziosa donna in tenuta da amazzone marrone, già venuta in precedenza. «Sono contentissimo di vedervi», disse Gatsby dalla veranda. «Sono contento che siate passati», come se loro importasse. «Accomodatevi, prendete una sigaretta o un sigaro». Si aggirò premuroso per la stanza suonando i campanelli. «Vi faccio portare qualcosa da bere in un istante». Era profondamente colpito dalla presenza di Tom, ma sarebbe rimasto comunque a disagio finché non avesse offerto loro qualcosa, consapevole, seppure in maniera vaga, che era proprio quella la ragione per cui la gente andava da lui. Il signor Sloan non desiderava nulla, nemmeno una limonata. «No, grazie, un goccio di champagne. Niente, davvero, grazie, mi spiace». «È andata bene la cavalcata?» Le strade sono molto buone da queste parti. Immagino che le automobili... Sì. Mosso da un impulso irresistibile, Gatsby si voltò verso Tom, che aveva accettato di recitare la parte dello sconosciuto al momento delle presentazioni. «Credo di avervi già incontrato, signor Buchanan». «Oh, sì», disse Tom, con ruvida cortesia, ma era chiaro che non rammentasse il frangente. «Certo, me lo ricordo bene. Circa 2 settimane fa. È vero, eravate insieme al nostro Nick». «Conosco vostra moglie», proseguì Gatsby quasi con aggressività. «Sul serio?» Tom si voltò nella mia direzione. «Abiti qui vicino, Nick?» «Qui accanto, sul serio». Il signor Sloan non partecipò alla conversazione, ma se ne restò adagiato, molle e altezzoso nella sua poltrona. Nemmeno la donna disse nulla, finché inaspettatamente, dopo 2 highball, si fece affabile. «Verremo tutti al vostro prossimo ricevimento, signor Gatsby», propose. «Che ne dite?» «Ma certo, sarà un vero piacere avere i miei ospiti». «Davvero gentile», disse il signor Sloan senza alcuna gratitudine. «Beh, credo che dobbiamo avviarci verso casa». «Vi prego, non abbiate fretta», raccomandò Gatsby. Aveva riacquistato il controllo di sé e voleva inquadrare meglio Tom. «Perché non vi fermate per cena? Non mi sorprenderebbe se altre persone facessero un salto da New York». «Venite voi a cena con me», disse la donna con entusiasmo. «Entrambi». Ero stato incluso nella partita. Il signor Sloan si alzò dalla poltrona. «Andiamo», disse, ma solo a lei. «Dico sul serio», insistei, «sarei felicissima se veniste, ho tanto di quello spazio». Gatsby mi guardò con aria interrogativa. Voleva andare, e non si era reso conto che il signor Sloan era del tutto contrario. «Temo di non potere», dissi. «Beh, venite voi», incalzò lei, tutta concentrata su Gatsby. Il signor Sloan le mormorò qualcosa all'orecchio. «Non faremo tardi se partiamo adesso», insisté lei a voce alta. «Io non ho un cavallo», disse Gatsby. «Cavalcavo quando ero nell'esercito, ma non ho mai comprato un cavallo. Dovrò venirvi dietro con l'auto. Vogliate scusarmi un istante?» Noi altri uscimmo in veranda, dove Sloan e la donna si appartarono, dando vita a una conversazione accalorata. «Mio Dio, temo che sia intenzionato a venire», disse Tom. «Non ha capito che lui non lo vuole». «Lo vuole lei, a quanto pare. Lei ha organizzato una grande cena e Gatsby non conoscerà nessuno degli invitati». Aggrottò la fronte. «Mi domando dove diavolo abbia conosciuto Daisy. Per Dio, la penserò in maniera antiquata, ma oggigiorno le donne accorazzano troppo con i miei gusti. Incontrano ogni sorta di squinternati». D'un tratto il signor Sloan e il signora scesero la scalinata e montarono in sella. «Andiamo», disse il signor Sloan a Tom. «Siamo in ritardo, dobbiamo muoverci. E quindi a me. Ditegli che non potevamo aspettare, vi spiace?» Strinsi la mano a Tom e scambiai un cenno di saluto con gli altri. Li vidi trottare veloci lungo il viale e sparire sotto il fitto fogliame d'agosto, proprio mentre Gatsby usciva dal portone d'ingresso con il cappello e il soprabito in mano. Tom era in tutta evidenza preoccupato che Daisy scorrazzasse da sola, perché il sabato seguente l'accompagnò alla festa di Gatsby. Forse la sua presenza conferì alla serata un senso d'oppressione del tutto particolare. Nei miei ricordi spicca tra le tante altre feste che Gatsby diede in quell'estate. C'era la solita gente, o perlomeno il solito tipo di gente, la solita profusione di champagne, il solito putiferio multicolore e multitonale, ma avvertì un che di sgradevole nell'aria, una rigidezza diffusa che mai c'era stata prima. O forse mi ci ero soltanto abituato, ero giunto ad accettare West Egg come un mondo completo in se stesso, con i suoi parametri e le sue figure di riferimento, secondo a nessuno, perché non aveva coscienza di esserlo, e adesso tornavo a vederlo in luce diversa, con gli occhi di Daisy. È sempre rattristante guardare con nuovi occhi le cose alle quali ci si è sforzati di adattarsi. Arrivarono al crepuscolo e mentre passeggiavamo tra centinaia di ospiti scintillanti, la voce mormorante di Daisy modulava i suoi incantesimi. «Tu non sai quanto mi eccitino queste cose», bisbigliò. «Se mai stasera dovesse venirti voglia di baciarmi, Nick, non hai che da dirmelo e sarò più che felice di provvedere. Devi solo fare il mio nome. Oppure presentarmi un biglietto verde. Stasera li sto distribuendo verdi». «Guardatevi attorno», suggerì Gatsby. «Mi sto guardando attorno ed è una meravigliosa... Dovreste vedere facce di persone di cui avete sentito parlare». Gli occhi arroganti di Tom vagarono tra la folla. «Non andiamo molto in giro», disse. «In effetti stavo giusto pensando che non mi pare di riconoscere un'anima». «Forse conoscete quella signora». Gatsby indicò una statuaria donna dalle sembianze a malapena umane, seduta come una sontuosa orchidea sotto un susino bianco. Tom e Daisy la fissarono a occhi sgranati, con quella speciale sensazione di irrealtà che accompagna la vista di un divo del cinema che fino a un istante prima era solo un fantasma. «È incantevole», disse Daisy. «L'uomo chino su di lei e il suo regista». con fare cerimonioso li condusse di gruppo in gruppo. La signora Buchanan e il signor Buchanan, dopo un istante di esitazione, aggiunse: «Il giocatore di polo». «Oh no», obiettò Tom subito, «non sono io». Ma evidentemente a Gatsby piaceva il suono di quell'espressione, poiché per il resto della serata Tom rimase il giocatore di polo. «Non ho mai incontrato così tante persone famose», esclamò Daisy. «Simpatico quel tipo di prima, com'è che si chiamava? Quello con una specie di naso blu». Gatsby lo identificò, spiegando che si trattava di un piccolo produttore. «Beh, mi è simpatico lo stesso». «Gradirei non essere presentato come il giocatore di polo», disse Tom in tono affabile. «Preferirei guardare tutta questa gente famosa restando nell'oblio». Daisy e Gatsby ballarono. Ricordo che fui sorpreso dal suo foxtrot aggraziato e all'antica. Non l'avevo mai visto ballare prima. Quindi si incamminarono a passo lento verso casa mia e sedettero sui gradini per mezz'ora, mentre io, dietro richiesta di lei, restavo a fare la guardia in giardino. «Nel caso dovesse scoppiare un incendio o venisse un'inondazione», spiegò, «o per qualunque evenienza di forza maggiore». Tom riemerse dall'oblio quando ci stavamo sedendo a tavola per cenare insieme. «Vi spiace se mangio qui insieme ad altre persone», disse. «C'è un tizio che racconta storie spassose». «Ma certo», replicò Daisy cordiale, «e se hai bisogno di appuntare qualche indirizzo, eccoti la mia piccola matita d'oro». Poco dopo si guardò attorno e mi disse che la ragazza era volgare ma graziosa, e io capii che, eccezion fatta per la mezz'ora trascorsa da sola con Gatsby, non si stava divertendo. Eravamo a un tavolo particolarmente alticcio. Era colpa mia. Gatsby era stato chiamato al telefono e solo 2 settimane prima io avevo apprezzato la compagnia di quelle stesse persone. Ma ciò che in un primo momento mi aveva divertito si andava ora guastando. «Come vi sentite, signorina Baedeker?» La ragazza interpellata stava cercando senza successo di stramazzare sulla mia spalla. A questa domanda si drizzò sulla schiena e aprì gli occhi. «Cosa?» Una donna corpulenta e letargica, che aveva incalzato Daisy affinché l'indomani giocasse a golf con lei nel club della zona, prese la parola in difesa della signorina Baedeker. «Oh, sta più che bene adesso. Dopo che ha bevuto 5 o 6 cocktail, grida sempre a quel modo. Non faccio che dirle di smetterla». «E io la smetto, infatti», dichiarò l'accusata in tono forzato. «Ti abbiamo udita gridare, così ho detto al signor Sivet, qui. C'è qualcuno che necessita del vostro aiuto, dottore». «Ti è molto obbligata, ne sono certa», disse un'altra amica senza riconoscenza, «ma tu le hai bagnato tutto il vestito quando le hai ficcato la testa nella piscina». «Se c'è una cosa che odio è che mi si ficchi la testa in una piscina», borbottò la signorina Baedeker. «Mi hanno quasi affogata una volta nel New Jersey». «Quando è così dovreste smettere», ribatté il dottor Sivet. «Parlate per voi», sbottò la signorina Baedeker con veemenza. «Vi tremano le mani, non mi lascerei mai operare da voi». Si proseguì a questa maniera. L'ultima cosa che ricordo quasi sono i momenti trascorsi con Daisy a guardare il regista e la sua stella. Erano ancora sotto il susino bianco e i loro volti erano separati soltanto da un pallido raggio di luna. Mi venne da pensare che lui avesse impiegato tutta la serata a chinarsi su di lei un poco alla volta per conquistare quella vicinanza. E proprio mentre li guardavo, lo vidi inclinarsi di un ultimo grado e baciarla sulla guancia. «Mi piace», disse Daisy. «La trovo meravigliosa». Ma il resto la offendeva, e in maniera inappellabile, poiché non era un gesto, ma un'emozione. Trovava terrificante West Egg, questo posto inaudito che Broadway aveva generato da un villaggio di pescatori di Long Island. Trovava terrificante il rozzo vigore che ribolliva sotto vecchi eufemismi, e il destino troppo invadente che costringeva gli abitanti a marciare in branco lungo una scorciatoia che portava dal nulla al nulla. Scorgeva qualcosa di orribile in quella stessa semplicità che non riusciva a comprendere. Sedetti sui gradini d'ingresso insieme a loro mentre aspettavano l'auto. Non c'era che buio davanti a noi. Soltanto la porta alle nostre spalle proiettava un rettangolo di luce, subito inghiottito dalla morbida oscurità del mattino. Di tanto in tanto un'ombra si muoveva dietro la persiana di uno spogliatoio al piano di sopra. Lasciava il posto a un'altra ombra. un'indefinita processione di ombre che si imbellettavano e incipriavano davanti a uno specchio invisibile. «Si può sapere chi è mai questo Gatsby?» domandò Tom d'un tratto. «Un grosso contrabbandiere». «E questa dove l'hai sentita?» gli chiesi. «Non l'ho sentita, me lo sono immaginato. Vedi, un sacco di questi nuovi ricchi non sono che grossi contrabbandieri». «Non Gatsby», tagliai corto. Restò in silenzio per un momento. La ghiaia del viale crocchiò sotto i suoi piedi. «Comunque sia, deve di certo essersi dato molto da fare per mettere insieme questo zoo». Una leggera brezza mosse la nube grigia del colletto di pelliccia di Daisy. «Almeno è gente più interessante di quella che conosciamo noi», disse a fatica. «Non sembravi tanto interessata, e invece lo ero». Tom rise e si voltò verso di me. «Hai notato la faccia di Daisy quando quella ragazza le ha chiesto di metterla sotto una doccia fredda?» Daisy cominciò a cantare al seguito della musica con un sussurro ritmico e roco, mettendo in ogni parola un significato che non aveva mai avuto prima e mai più sarebbe tornato ad avere. Quando la melodia aumentava di intensità, la sua voce si incrinava dolcemente, tenendo il passo alla maniera di un contralto, e ogni cambio di tonalità riversava nell'aria un poco della sua calda e umana magia. «Un sacco di gente viene senza essere invitata», disse all'improvviso. «Quella ragazza non era stata invitata. Entrano di prepotenza e lui è troppo gentile per fare obiezioni». «Mi piacerebbe sapere chi è e cosa fa», insiste Tom. «E credo proprio che mi ingegnerò di scoprirlo». «Te lo dico subito», replicò lei. «Possedeva delle farmacie, un sacco di farmacie. Le ha messe su da solo». La limousine che li aveva costretti all'attesa risalì il viale. «Buonanotte, Nick», disse Daisy. Il suo sguardo mi lasciò per andare in cima ai gradini illuminati, dove 3 o'clock in the morning, un piccolo valzer triste e armonioso che andava di moda quell'anno, defluiva dalla porta aperta. In fondo, l'informalità stessa della festa offriva possibilità romantiche che erano del tutto assenti dal mondo di Gatsby. Cosa c'era in quella canzone che sembrava richiamarla all'interno? Cosa sarebbe accaduto adesso, nelle ore più buie e imprevedibili? Magari sarebbe comparso un ospite eccezionale. Una persona di infinita rarità che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. Una ragazza radiosa di bellezza, al cui sguardo un poco sfacciato sarebbe bastato un solo, magico attimo di contatto con quello di Gatsby per spazzare via 5 anni di devozione incrollabile.